I too would like to welcome all of you to this retreat, a 30-day retreat. And today we will start its second part. Anch'io vorrei darvi il benvenuto a questo ritiro di 30 giorni, e oggi noi cominceremo la seconda parte del ritiro. And certainly it is certainly very inspiring to see this large group of practitioners who has come together here to practice for various lengths of time. Ed è una fonte di ispirazione vedere questo grande gruppo che si è ritrovato qui per praticare per diversi periodi di tempo. And it is a deep appreciation for the Dhamma that probably will have brought us together. It is the practice of the Dhamma that will transform us into an extended Dhamma family. Quindi è una, come dire, un riconoscimento del valore del Dhamma che probabilmente ci ha portati qui per praticare. Ed è proprio questo valore del Dhamma che farà in modo che la nostra pratica progredirà in modo tale da farci sentire parte di una famiglia del Dhamma. Now, when we look at some of the reasons that may lead people to undertake this practice of the Dhamma, we could state the following. Quando prendiamo in considerazione le motivazioni che portano le persone a praticare il Dhamma, noi potremmo affermare le seguenti cose. So, there could be for one or the other person the loss of a spouse or partner or family member or the loss of a job that suddenly then brings about certain deep disappointment with life, and suddenly then this is certainly followed by a pursuit of the Dhamma, seeking something else, something more meaningful. Potrebbe esserci stata la perdita di una persona cara, magari di un coniuge o di un membro della famiglia, o la perdita di un lavoro, e questo può provocare una forte delusione nei confronti della vita, e quindi porterà una persona a praticare, quindi a ricercare nella pratica, nel Dhamma, qualcosa di più significativo nella vita. Or for some, it certainly could be a certain dissatisfaction with the materialistic way of life that certain society is certainly preaching. And along the motto, the more you consume, the happier you will be. Per altri potrebbe essere una profonda insoddisfazione rispetto allo stile di vita consumistico che ci viene proposto dalla nostra società, e il motto di questa società consumistica potrebbe essere: più consumi e più sei felice. Or it could be that we ourselves become the victims of some unwholesome mental states such as anger or tremendous restlessness, and we find that this is causing us problems again and again, and we then seek ways to deal with these mental defilements. O potremmo essere noi stessi vittima di stati mentali negativi, non salutari, come per esempio la rabbia o l'irrequietezza, e scopriamo che questi ci creano molti problemi. Allora cerchiamo un modo per poter noi stessi affrontare, gestire meglio questi stati mentali negativi, questi difetti mentali che ci creano tutti questi problemi. Or it could be simply stress itself. Stress that might come with the tremendous amount of pressure that some people are experiencing, having to perform 100% all day long, from the time one wakes up in the morning until the time one goes to bed. O può essere una condizione di stress, cioè la pressione che una persona subisce durante la propria giornata, con tutte le faccende, le cose che deve affrontare, che deve gestire, da quando si alza al mattino fino a quando non va a dormire la sera. And so it could be that one finds that one is really lacking in concentration, and certainly as a result of this, one wants to do something about it, one wants to improve the situation, so one goes in pursuit of concentration. E può essere che una persona si renda conto che gli manca la concentrazione e quindi cerca di fare qualcosa alla ricerca di uno sviluppo di questo, di questa concentrazione. Or we might certainly find that in actuality we really don't have much inner peace, although people talk of it. And suddenly then we might decide to go in pursuit of this inner peace. Oppure potremmo scoprire di non avere quella pace interiore di cui molti parlano, e allora decidiamo di andare alla ricerca di questa pace interiore. Or it certainly could well be that we realize, even though we may have or we may be highly educated in a worldly sense, yet we don't really understand certainly what life is all about. We don't even understand ourselves, and certainly then out of this we might go in pursuit of true wisdom, inner wisdom. Oppure potremmo essere delle persone ben istruite, nel senso ordinario, mondano del termine, con una buona istruzione, una buona conoscenza, però potremmo scoprire di conoscere molto poco della vita, dell'esistenza e anche di noi stessi, e allora potremmo avere il desiderio di intraprendere appunto una pratica, una via che ci consenta questa conoscenza più profonda di noi stessi. Or it could be we expect formations to be things to be permanent, but then they turn out to be impermanent. We expect life to be full of happiness, and certainly yet we keep meeting it with suffering. And certainly we expect to be in control of our life, and yet certainly things do not necessarily go according to our wishes and ideas. And so with this then comes a certain disappointment, and certainly with this, or this then too, could gradually push us more and more towards the Buddha's Dhamma. Oppure potremmo illuderci o ritenere che le cose siano permanenti, per poi scoprire invece che non lo sono, oppure sperare che la vita sia piena di cose che portino la felicità, e invece scoprire che è piena di sofferenza, o pensare che noi possiamo essere in controllo della nostra vita, per poi scoprire che in realtà non lo siamo. Quindi anche tutto ciò può portarci a intraprendere intraprendere la pratica. È una motivazione per cominciare questa pratica. Maybe I lost the very last part of this. And so obviously there could be many other reasons that eventually might certainly lead to a certain interest in the Dhamma. Potrebbero esserci ovviamente tante altre motivazioni che possono condurre a questo interesse per il Dhamma. Now, in a situation like this, where one starts looking for something else, it may happen that one hears from a friend maybe some statement about the Dhamma, or one reads a certain passage that makes a lot of sense, or one happens to listen to a Dhamma talk and find something that is really inspiring. Allora, in una situazione di questo genere, quando uno cerca qualcos'altro, allora può capitare che uno senta delle parole da un amico che riguardano il Dhamma o che possa leggere qualcosa e trovare un interesse in questo, o ancora ascoltare un discorso di Dhamma e scoprire che è fonte di grande ispirazione. And suddenly this thing could lead to the very first arising of some still weak faith. E questo quindi può portare al sorgere di una fede che a questo punto è ancora molto debole. And suddenly this faith, initial faith, then maybe the factor that suddenly will lead a person on to take the next step, and that step would certainly consist in reflections about one's present life, and one sees that under the given circumstances at home it is difficult to practice the Buddha's Dhamma, and then one starts to look maybe for a meditation group, a sitting group, or even for a retreat and at a retreat center. E quindi dopo questa fede iniziale, o meglio, questa fede iniziale può portare una persona a intraprendere il passo successivo, che è quello di guardare un po' più in profondità la propria vita e scoprire che è molto difficile praticare in casa o seguire una pratica di Dhamma nella propria casa, e quindi cercare un gruppo di meditazione oppure un centro di meditazione dove possa seguire questa pratica in maniera più adeguata. And that then could lead a person to actually sign up for one's first meditation retreat and come to such a beautiful place as Pendici Legi. E quindi questo può portare una persona a decidere di iscriversi ad un ritiro di meditazione e quindi aggiungere ad un posto bello come questo, che è il centro di meditazione di Pendici Legi. And so once one has reached a place like Pendici Legi, and once one starts practicing, then obviously one will want to know what is the essence of the Buddha's teachings. What is this all about? Quando uno poi è arrivato qui a Pendici Legi e comincia a praticare, allora ovviamente vorrà sapere qual è l'essenza degli insegnamenti del Buddha, di cosa si tratta esattamente. Now there is a short verse which is mentioned in the so-called Chandana Sutta of the Samyutta Nikaya, which is also the mentioned in the Path of Purification, the Visuddhimagga, as the opening verse. And that verse basically gives the structure for the entire work. Allora c'è un verso, una strofa molto molto breve nel Chanda Sutta del Samyutta Nikaya, che è ripreso anche nel Visuddhimagga, nel sentiero della purificazione, e che è addirittura la frase iniziale del Visuddhimagga, che dà il senso all'intera opera. Now, to quote the translation by Venerable Bhikkhu Bodhi, one always perfect in virtue. Allora, questo per citare dalla traduzione di Bhikkhu Bodhi. Allora, una persona che è sempre perfetta nella propria virtù. Endowed with wisdom. Ed è, fornito di saggezza. Well concentrated. Ben concentrato. One energetic and resolute or diligent. Una persona... What was the first word? One energetic. Energico e risoluto. Cross, o diligente. Mm-hmm. Crosses the flood so hard to cross. Attraversa la corrente o il flusso che è così difficile da attraversare. So what is that sudden flood so hard to cross? Quindi, cos'è questa corrente che è così difficile da attraversare? It is certainly the floods of mental defilements that give us so many problems again and again. E quindi è la corrente, diciamo il flusso dei difetti mentali che ripetutamente ci danno tutti questi problemi. So in very simple words, the Buddha states that through the training in virtue, by perfecting our ethical conduct, can we cross this flood. However, virtue alone, or training in virtue alone, will not be enough. It needs to be accompanied by some other factors. Allora, in parole semplici, il Buddha dice che per attraversare appunto questo flusso, questa corrente, è necessario un perfezionamento della virtù, cioè della propria condotta etica. Tuttavia, questo perfezionamento del comportamento etico non è sufficiente, sono necessari altri fattori. No. The next quality that the Buddha is praising, that is helpful to cross, that flood so hard to cross, is a mind which is well concentrated. So concentration. La seconda qualità indicata dal Buddha per poter attraversare questa corrente così difficile da attraversare è un addestramento, un tirocinio nella concentrazione. Quindi il secondo elemento, il secondo fattore è la concentrazione. And as the third major factor that helps to cross this flood is wisdom. Intuitive wisdom, a form of wisdom that arises not through reading books or through listening to Dhamma talks, but rather that arises out of the meditation practice. Il terzo fattore è la saggezza intuitiva, cioè non quella saggezza che sorge dal leggere dei libri o ascoltare dei discorsi di Dhamma, ma è quella saggezza che sorge dalla pratica meditativa. Now, to shape one's life through a virtuous conduct is good, and to train one's mind so that it becomes more concentrated is even better, and to develop intuitive wisdom is of course the best. But all of this is possible only if we are energetic. If we do not put in a certain amount of effort, and this effort gradually has to increase, then we will not get very far. E quindi modellare la nostra vita su una condotta etica va bene. Sviluppare una mente concentrata è ancora meglio. Meglio ancora è sviluppare questa conoscenza intuitiva, questa saggezza intuitiva, però affinché tutto questo sia possibile è necessario che ci sia un aspetto, una componente energetica, di energia. Quindi solo attraverso uno sforzo che via diventa sempre maggiore che tutto ciò sarà possibile. Now, the last quality that the Buddha mentions in the Chandana Sutta is to be resolute or to be diligent. The Pali scriptural term for this is pahitatta, which means to have a fixed purpose or aim. Ecco, quindi l'ultimo fattore che è menzionato in questo Chandana Sutta dal Buddha è questa risolutezza, non so se in italiano si dice essere risoluti, essere diligenti, e il Venerabile ha detto il termine pali word paitata. Paitata, che significa avere uno scopo preciso, essere chiari rispetto alla meta, all'obiettivo. So what we shall do during our Dhamma talk tonight is look at these main ingredients of the practice as given by the Buddha and explain them a little bit further. Allora, quello che faremo nel discorso di questa sera è prendere questi ingredienti che ha indicato il Buddha come componenti della pratica di meditazione e li spiegheremo in maniera un pochino più approfondita. Now, when we meditate, then changes need to take place. And so, if we want to meditate and we're not ready to make any changes whatsoever, then this will be a futile exercise. Quando meditiamo, è inevitabile che avvengano dei cambiamenti. E se noi non siamo disposti a mettere in atto o accettare questi cambiamenti, allora la meditazione sarà un esercizio futile. And so the Buddha advised to first of all cultivate, adjust, shape our physical as well as our verbal conduct. So the way we behave with the way we interrelate with others bodily as well as this whole area of communication with others. Allora, un modo per fare questo è stato indicato dal Buddha come il prestare attenzione o coltivare il nostro comportamento e, sia a livello fisico ma anche come comunicazione a livello verbale. E quindi questa è un'area, questa della comunicazione, della interrelazione, della relazione con gli altri, che va presa in considerazione e va coltivata. Purity is an important quality that we need to develop, and certainly this encompasses not only the purity of the mind, but also the purity of our physical and verbal conduct. Quindi la purezza è una qualità che va coltivata, e qui si intende non solo la purezza della mente, ma anche la purezza della nostra condotta fisica e verbale. And so there is a huge difference between the life of a person and the status of a person who casually or frequently, without certainly giving it much thought, takes life or brings harm to others, who frequently takes what is not certain given, thinking, oh, never mind, this item here is flying around, from now onwards I declare it to be mine, and so on. Ok, quindi ci sono alcune persone che hanno un comportamento durante la loro vita che praticamente in maniera molto casual, senza molta attenzione, cioè in maniera, come si può dire in italiano, spontanea, senza dare troppa importanza alla cosa, tolgono la vita degli altri esseri, per esempio, oppure prendono ciò che non è loro, non gli è stato dato, con un ragionamento del tipo, beh, tanto è qui che non fa niente, quindi posso benissimo impossessarmene e farlo mio. So, on the other hand, we have a person who takes this virtue to heart and tries his or her best to observe an ethical code of conduct, and thus does or abstains from taking life, and not only this, but even protects life as much as possible. E d'altra parte ci sono delle persone che prendono invece questa virtù, questa etica a cuore, e allora non solo stanno attenti a non togliere la vita ad altri esseri, ma addirittura fanno del loro meglio per proteggere gli altri esseri e la vita degli esseri. And satna, this is satna done with an attitude of satna, wishing for the welfare and happiness of others, and also with an attitude of satna, sympathy, of compassion with satna, other beings. E questo è fatto con un atteggiamento di benevolenza verso gli altri, ma anche di empatia e di compassione, cioè un atteggiamento che porta ad augurare agli altri di stare bene, il loro benessere. And satna then, as satna for the second satna precept, a person to whom virtue is important will refrain from taking what is not given, and not only this, but will also protect satna others, satna property. E per quanto riguarda il secondo precetto, una persona appunto virtuosa non solo si asterrà dal prendere cose che non possiede o che non gli vengano date, ma addirittura proteggerà e difenderà la proprietà degli altri. And certainly when refraining from taking what is not given and protecting others' certain property, then this is done with a mental attitude or with a heart which is pure and honest. E quindi questo non prendere ciò che è dato, proteggere la proprietà degli altri, è fatto con un cuore che è puro e onesto. And certainly, by the same token, one to whom virtue is certainly important will refrain from indulging in sexual misconduct and will refrain from speech that is certainly incorrect and that will bring harm to others, and will also refrain from taking intoxicating substances. Quindi una persona per la quale la virtù è importante si asterrà anche da un comportamento sessuale scorretto e starà attento nell'uso della parola, quindi non utilizzerà la parola in maniera scorretta, e inoltre eviterà di prendere sostanze che possano intossicare. Now, furthermore, while we are on a retreat, we try to take food only twice a day, knowing very well that certainly eating too much or taking a heavy meal usually results certainly in a nodding head. Durante un ritiro noi ci impegniamo a consumare solo due pasti, riconoscendo il fatto che il mangiare troppo, il troppo cibo, di solito produce una testa che ciondola, in altre parole sonnolenza. And so, also if we were to take a meal in the evening, then this might unnecessarily stimulate our sexual appetite. Inoltre, se prendessimo un pasto serale, questo potrebbe anche stimolare i nostri desideri sessuali. Now, again, while we're on a retreat, we refrain from any kind of entertainment, such as dancing, singing, and then playing instruments and visiting shows. E inoltre, durante un ritiro, noi ci asteniamo anche dai divertimenti, da qualsiasi tipo di divertimento, come per esempio ascoltare la musica o ballare, suonare uno strumento o assistere a spettacoli. And so, these kind of activities usually lead to a distracted state of mind, and we're not interested in that. Perché questo tipo di attività di solito conducono a uno stato mentale distratto, e a noi questo non interessa. And certainly then we also refrain from beautifying ourselves while on a retreat. There's no need to impress others. There's no need to get involved in a so-called Vipassana romance. Inoltre, durante un ritiro noi ci asteniamo anche dal abbellirci, migliorare, cercare di migliorare il nostro aspetto fisico, perché questo non è necessario in un ritiro di Vipassana. Anzi, noi vogliamo evitare che ci siano delle, come dire, delle storie d'amore Vipassana. And this we can do after the retreat, as much as we like. Questo lo possiamo fare dopo il ritiro, quanto vogliamo. So the last precept, the eighth, is about refraining from high and luxurious seats and beds, and this has to be understood in an Asian context, or maybe even general context. That sitting on high seats and beds usually is done by people of high social status. And this then supports our or builds our pride and conceit, and there's no need for this. Per quanto riguarda l'ottavo precetto, ci impegniamo a non utilizzare, a non usare né sedie né letti alti e lussuosi, ma questo va compreso all'interno di un contesto più orientale, diciamo, dove sedersi su questo tipo di sedio, di letti, era indice di, come dire, di una persona molto in alto nella scala sociale, e quindi si può pensare che utilizzare questi luoghi possa aumentare il proprio orgoglio e la propria presunzione. Sometimes people say, when there's talk about sila, what is sila good for? And what's the use of it? The question now to you, is there a difference between a human being that keeps the precepts and one who does not keep the precepts? Spesso le persone chiedono, ma a cosa serve seguire Sila, cioè la moralità? Allora adesso pongo io la domanda a voi. Che differenza c'è tra una persona che segue i cinque precetti e una persona che non segue i cinque precetti? So, is there a difference or not? C'è una differenza oppure no? Yes, there is a difference. And you prefer, to be very clear, you prefer to be without precepts or with precepts? Voi preferite avere i precetti o non averli? With. Okay, I'm glad. And so, it makes a big already, this training in virtue itself brings about a major change into our life. And one of the results is for ourselves, and this is an important result, that we will not have a bad conscience, as opposed to someone who keeps breaking these precepts all the time. Quindi già solo questo tirocinio, questo addestramento nella moralità ha dei grandi benefici, dei grandi vantaggi nella nostra vita. Perché già solo il fatto di non rompere i precetti e di seguirli fa sì che noi possiamo mantenere una coscienza a posto, una coscienza pulita. Al contrario, se invece dovessimo romperli, avremmo invece una coscienza sporca. Now, there are at least two forms of generosity. One is giving material items to others who are in need of something, and the other one is the gift of fearlessness, abhya dana. Ci sono due tipi di generosità. Una è quella di offrire oggetti materiali a persone che ne hanno bisogno, e l'altro invece è il dono del non fare del male, o di non creare paura nell'altro. In italiano è un po' difficile da tradurre. Cioè il dono che si fa all'altro di non, come dire, di essere innocui, ecco, di non poterlo danneggiare. E questo in pali è Abeya Dana. No, Bia means fear and Abeya means sudden fearlessness, and Dana is your generosity, your act of giving. Quindi Bea è paura, quindi Abeya è l'assenza di paura e Dana è la generosità, è l'atto del donare. So it's relatively easy to give some material item to another person, but it's more difficult and also more important, more valuable to give that gift of fearlessness to others in the form of keeping the precept and not threatening others through wanting to take their property and wanting to attack others and giving others a hard time. Quindi è molto facile, cioè è più facile praticare la generosità offrendo dei beni materiali a un'altra persona, è più difficile ma anche più di valore invece offrire questa seconda forma di generosità, questo dono del non danneggiare, il fatto di, e questo lo si fa attraverso il mantenere i 5 precetti. Quindi l'altra persona sa che non sarà in alcun modo danneggiato, che non gli prenderai le sue proprietà, che non gli farai del male. And one of the beautiful things of being on a retreat is that we can trust each other. And this trust comes from everyone keeping the precepts. La cosa bella del ritiro è che sappiamo che possiamo fidarci l'uno dell'altro. E questa fiducia durante un ritiro viene proprio con l'impegno a mantenere i precetti. And so, we know, okay, that others, if they have to speak to us, they will at least make an effort to choose their words carefully, and what they say will be true and will not be offensive. E sappiamo che se durante un ritiro una persona deve parlarci, questa persona sceglierà con cura le parole da usare e saranno parole sincere e saranno tali da non ferirci, da non offenderci. So, the main benefit of training in a virtue is that it really brings about a refinement of our physical and verbal behavior, and as mentioned earlier on, it leads to an absence of a bad conscience, of remorse or regret that would arise if we would transgress in one way or another. E quindi questa pratica della moralità risulta in una, si può dire, in un raffinamento, si dice in italiano, della propria condotta fisica e verbale, e questo è uno dei benefici più grandi di questo addestramento nella moralità. E inoltre, come abbiamo detto prima, ci permette di avere la coscienza pulita, cioè di essere liberi dal rimorso o dal rimpianto. Now, to train in virtue is good but not good enough. And certain mental defilements that will still be going on in the mind, and certain hence certain the Buddha is certain proposing that certain one should also train in concentration. In other words, train the mind in such a way that gradually becomes more and more concentrated, one-pointed. E quindi questa pratica della moralità da sola non è sufficiente. Allora il Buddha propone un secondo modo, una seconda pratica, quella della concentrazione, e cioè addestrare la mente in modo tale che un po' per volta diventi sempre più concentrata, sempre più capace di fissarsi su un punto. Now, when we are well based in virtue, And certain, on top of this, certainly we are mindful of whatever predominant phenomenon comes up in the body and in the mind from moment to moment. And then gradually the mind will fall squarely on the predominant object and will stick to it. In other words, the mind will become unified, and with this concentration is present. E quindi sulla base di questa virtù, diciamo, e quando si riesce a essere consapevoli momento dopo momento riguardo ai fenomeni che sorgono, allora la mente riesce sempre di più a essere uno, una con l'oggetto, a cadere direttamente sull'oggetto, e questo le permette gradualmente di diventare sempre più concentrata. Permette lo sviluppo di una concentrazione sempre più forte. So the arising of concentration is an outcome of our mindfulness practice. E quindi lo sviluppo di questa concentrazione è il prodotto della nostra pratica di consapevolezza. And so, in the presence of concentration and also in conjunction with the presence of mindfulness and effort, the so-called five hindrances, which are unwholesome mental states, will be at least temporarily suppressed. Quindi la presenza di questa concentrazione insieme alla consapevolezza e al retto sforzo, allora almeno momentaneamente, temporaneamente, i cosiddetti cinque ostacoli saranno eliminati o repressi. And certainly this is good. A certain degree of mental purity we gain in this way, but it's still not good enough, because the mental defilements will still remain in a latent form. Whenever the appropriate conditions arise, they might be activated again. E questo va già molto bene, è già una prima forma di purezza della mente, ma non è sufficiente, perché i difetti mentali rimangono sotto forma latente, e quindi appena le condizioni sono mature o appena sussistono le condizioni, allora sono pronti a risorgere, a venire di nuovo fuori. And certainly it is to deal with these latent defilements that the training in wisdom is so important. Ed è proprio per affrontare questi difetti mentali latenti che è così importante, è proprio per questo che è così importante lo sviluppo, la pratica o la coltivazione della saggezza. So, based on an initial faith in the Buddha's Dhamma, and certainly furthermore, based on some amount of balanced effort, continuous mindfulness, then based on these, concentration will arise, and based on the concentration, in turn, intuitive wisdom will arise. Ok, quindi si parte con questa base iniziale di fiducia nel Dhamma, e a questa fiducia poi segue una faith effort. Okay. Poi c'è lo sforzo, quindi nasce un certo sforzo. Grazie allo sforzo si sviluppa la concentrazione, la consapevolezza. Poi, dopo la consapevolezza, la concentrazione, e infine si sviluppa questa saggezza intuitiva. Yes. And so, you may not understand what is meant by intuitive wisdom. It is seeing the true nature of an object, seeing an object according to reality. Quindi potreste non comprendere bene cosa si intende per saggezza intuitiva. Significa comprendere la vera natura di un oggetto, cioè capire questo oggetto o questo fenomeno in base alla realtà. And certainly this can be very different from our ordinary way of seeing the objects. E questo può essere molto diverso dal nostro modo ordinario di vedere gli oggetti. Now, later on, abbreviated instructions that will be given that eventually lead to the arising of intuitive wisdom. Vi daremo poi delle istruzioni un po' concise, diciamo, rispetto a come sviluppare questa saggezza intuitiva. Now, before we go into the instructions, let's allow me to briefly mention a few things about the aim. Earlier on, it was mentioned that one needs to be resolute or diligent. So, practice with a certain aim in mind. Allora, prima di addentrarci nelle istruzioni, volevo solo sottolineare l'importanza dello scopo. Abbiamo detto prima che è necessario meditare con risolutezza, con diligenza, e questo significa avere ben chiaro qual è il nostro scopo, qual è la meta. Now, when we undertake intensive meditation practice, then we can do so with different aims, and for some people it is only to gain some well-being. Quando intraprendiamo una pratica intensiva possiamo farlo con diversi scopi, per alcune persone potrebbe anche essere, lo scopo potrebbe anche semplicemente essere di acquisire un certo benessere. Or for some, so it seems, meditation practice is done only to sail smoothly through samsara. Per altri la pratica della meditazione è intrapresa semplicemente per navigare in maniera tranquilla attraverso samsara. So, to explain this a little bit more, through the meditation practice some wholesome mental states arise, and suddenly then we say, okay, this much is enough, let me lead my life like this, whether or not I'll be reborn or not, it is not certainly interesting, and suddenly there's no goal, no aim to reach for liberation. Allora, per spiegare meglio questo concetto, può essere che alcune persone durante la pratica di meditazione raggiungano stati mentali salutari e si accontentino di questi, dicono, questo mi permette di, appunto, attraversare la mia vita in una maniera relativamente tranquilla, e quindi non hanno ulteriori scopi, non hanno la finalità della liberazione, e dicono, non mi interessa se ci saranno ulteriori rinascite, l'importante è che in questa vita io sia più tranquillo. So, the Buddha himself proposed the aim in the following words, as we've heard already, namely to cross the flood so hard to cross. E il Buddha ha già espresso con le parole già citate prima quale dovrebbe essere questo scopo, questo fine, questa meta, cioè attraversare questa corrente così difficile da attraversare. In a slightly more elaborated manner, the Buddha proposed that we practice with the aim of gaining true knowledge and liberation. Ho letto in altre parole, il Buddha ci suggerisce di praticare con lo scopo di ottenere la vera conoscenza o la vera liberazione. And in a particular discourse, the Buddha then explains exactly how, or explains the steps that need to be taken, which eventually will lead to that true knowledge and liberation. In un sutta particolare lui dice quali sono i passi da intraprendere per raggiungere questa vera conoscenza, questa vera liberazione. Now, in another place, Satya the Buddha gave the essence or the aim of the practice as follows, namely to develop purity, knowledge and nibbana. E da un'altra parte il Buddha spiega di nuovo l'essenza della pratica o lo scopo, che è quello di acquisire la purezza, la conoscenza e Nibbana. Yes. And so, training in virtue is already taking the first step towards that ultimate purity. Quindi addestrarsi nella virtù è già prendere il primo passo verso quell'obiettivo. Towards the end, you say? Towards the purity. Ah, verso quella purezza. And suddenly, then, when we're mindful of what every predominant object arises, and suddenly concentration is present, and knowledge arises, then again, that's our first step towards knowledge. E quindi quando siamo consapevoli di ogni oggetto predominante che sorge e quando con questo si sviluppa la concentrazione e poi la saggezza, stiamo andando, facendo un passo avanti ancora nella direzione di quella conoscenza. Mm. And so, the more we practice, the closer we then get the attainment of Nibbana. E ovviamente più pratichiamo, più noi ci avviciniamo a questo obiettivo, questo raggiungimento del Nibbana. Mm. And so in the Satipatthana Sutta, the most important discourse for the type of meditation that we practice here, the Buddha has been even more elaborate with regard to the aim of the practice, and he gives seven benefits to the practice. E nel Satipatthana Sutta, che è il sutta più importante per il tipo di pratica che facciamo qui, il Buddha entra ancora più nei dettagli, spiega ancora meglio quale dovrebbe essere lo scopo della pratica e elenca 7 benefici della pratica. And those seven benefits are given us the purification of the mind, the overcoming of sorrow and lamentation, and then the destruction of physical pain and mental distress, entering the right path, and Nibbana. I should know them by heart, but I don't. Purification of the mind. E quindi questi sette sono la purificazione della mente. Then, overcoming of sorrow and delight. That's quindi, 2 and 3. Il superamento della tristezza, della lamentazione. Sono 2 e 3. Yeah. And then number 4 and 5 is sudden destruction of physical pain and mental distress. Quindi la distruzione della sofferenza fisica e della pena mentale. And suddenly entering into the right path. E poi l'ingresso nel giusto sentiero. And the last one is the realization of Nibbana. E infine c'è la realizzazione del Nibbana. Now, of words of or notice, even though we speak of an aim or a goal for the practice, it does not mean that you have to be totally goal-oriented. Sì, solo un avvertimento. Il fatto che noi parliamo di obiettivi o di mete da raggiungere non vuol dire che voi dobbiate essere, in inglese si dice goal-oriented, cioè dovreste essere spinti verso il raggiungimento di un obiettivo. Non dovreste avere la mente, come dire, focalizzata solo su quello. The amazing thing about the Vipassana meditation is that all we need to do is just be mindful of whatever predominant object arises from moment to moment to moment, and automatically our main aim will be reached. La cosa incredibile della meditazione di Vipassana è che l'unica cosa che dobbiamo fare è essere consapevoli momento dopo momento dell'oggetto predominante che sorge e poi automaticamente, come dire, l'obiettivo, lo scopo della nostra pratica sarà raggiunto. What is meant is you just incline the mind in a certain direction and then you just do the work. Without thinking about the aim over and over and over again. quello che si intende è che è sufficiente dirigere la mente in una certa direzione e poi sarà la mente che automaticamente farà il suo lavoro senza la necessità di ripetutamente pensare all'obiettivo da raggiungere, alla meta da raggiungere. So, let's say, the aim is to gain Nibbana, and then, today, you say, okay, this first day of the retreat, so I'm still pretty far away from Nibbana, but tomorrow I'll be already much closer. And then, towards the end of the retreat, or you schedule your retreat in such a way, then Nibbana has to be yours just before you enter into your car. Può succedere che all'inizio del ritiro uno pensi, allora l'obiettivo, il mio scopo è raggiungere il Nibbana, per cui oggi è il primo giorno e va così, però il secondo sarò già un passo più vicino al Nibbana, e così via via mentre procedo con il mio ritiro, e poi entro la fine del ritiro, prima di entrare in macchina per tornare a casa, l'avrò già bene che raggiunto. So now, attitudes matter a lot while we're training the mind, and so there's certain things that are really worth keeping in mind. Quindi l'atteggiamento mentale è molto importante durante la pratica, e quindi ci sono diverse cose che è utile tenere a mente. And so some of the points that I will mention Jenny has already touched upon. Alcune cose che dirò le ha già menzionate Gianni. No, first one is make good use of your time. Retreat time is precious time. Quindi la prima cosa è fate un buon uso del vostro tempo, perché il tempo in un ritiro è un tempo prezioso. And so then diligence is being praised. And not without a reason. The more diligent we are in our practice, the more we will gain the benefits of the practice. Quindi essere diligenti è una cosa che viene lodata, e questo non è senza una ragione, perché più saremo diligenti e più riceveremo dei benefici dalla nostra pratica. Now, patience is another quality that is worth cherishing, and one aspect of this is that we endure the desirable as well as the undesirable. La pazienza è un'altra qualità che va coltivata, e questo è perché grazie alla pazienza noi riusciamo a in un certo senso sopportare sia ciò che è desiderabile sia ciò che non è desiderabile. And so whatever situation comes up in our practice, we try to tolerate it, and we try to not to oppose it. Qualsiasi situazione che sorga nella nostra pratica, noi riusciamo a tollerarla e non ci opponiamo ad essa. Then, as Gianni had mentioned earlier on, would you please let us practice with consideration for one another. We're here together in the same boat. We're all trying to purify the mind, and so let us not give trouble to one another. E poi, come ci ha invitato a fare prima Gianni, cerchiamo di avere considerazione per gli altri. Siamo tutti qui nella stessa barca, stiamo tutti cercando di purificare le nostre menti, quindi cerchiamo di adottare un comportamento che non sia che non crei disturbo ad altri. And so when we do this work of being mindful, then it's good to do this with a relaxed yet alert mind. E quando facciamo questo lavoro di sviluppare la consapevolezza, è bene farlo con una mente rilassata, ma allo stesso tempo vigile. No, so there's absolutely no need to get all tensed up, physically as well as mentally. But rather we want to keep the mind not relaxed. Non c'è motivo di essere tesi né sul piano fisico né sul piano mentale, quindi è utile mantenere un atteggiamento rilassato. If you find satna that for one reason or another you get satna quite tensed up, then take that state itself as an object of observation and satna be mindful of it. Se vi accorgete di essere tesi, allora prendete quello stato come vostro oggetto di osservazione e siatene consapevoli. And satna then next quality is of is that of goodwill. So in all of your action, or let all of your actions be propelled by goodwill. E la qualità successiva da sviluppare è la benevolenza, quindi assicuratevi che tutte le azioni che farete siano spinte da questa qualità, dalla benevolenza. So especially towards in your or towards others. E questo soprattutto nei confronti degli altri. And then in the meditation practice we need to be heroes, like our teacher from Burma, the Venerable Sadhu Pandita, has stressed on many occasions. E durante la nostra pratica noi dobbiamo essere degli eroi, come in diverse occasioni il nostro maestro venerabile Upandita della Birmania ha sottolineato. So we need to have a strong determination to go ahead, move ahead, no matter what comes up in the practice, especially in the face of difficulties. E quindi dobbiamo andare avanti con determinazione. Con forza, non importa quale difficoltà possa sorgere nella nostra pratica, nonostante qualsiasi difficoltà dobbiamo affrontare durante il nostro percorso. Now, the Anguttara Nikaya mentions the six obstacles to the practice of Satipatthana, and these are worth knowing. Quindi l'Anguttara Nikaya indica sei ostacoli alla pratica del Satipatthana e vale la pena di conoscerli. The first one is to be fond of activity. La prima è essere amare l'attività, diciamo così, amare la troppa attività. Yeah, right. To be fond of, yes, to like. Exactly. And certainly, secondly, avete capito, gradire l'attività, essere iperattivi. Then secondly, to be fond of talking. La seconda è appunto avere questo piacere nel parlare. And certainly, to be fond of sleeping. Avere il piacere nel dormire. And certainly, to be fond of company. Avere il piacere nella compagnia. And certainly, lack of sense control. Una mancanza di controllo dei sensi. And certainly, the last point is immoderate eating. L'ultimo punto è mangiare in maniera non moderata. Now, briefly, to we're coming to an end. Just to remind you of the preciousness of this retreat. It is only when quite a number of factors come together that a retreat is possible. Vorrei ricordarvi la preziosità, diciamo, di un ritiro. È solo quando ci sono delle condizioni favorevoli che che vengono insieme, che si uniscono, è solo quando questo accade che è possibile un ritiro. So first of all there need to be organizers such as Jani and Sandra, and certainly then there needs to be a suitable location. We have this certainly here at Biondi Chaveji, and certainly then also a cook needs to be there. Domenica is taking that part, and certainly then also there need to be all of you, the meditators, who, at least on a temporary basis, are renouncing their worldly commitments. And then there needs to be some teachers around. Last but not least. Allora, alcune di queste condizioni sono il fatto che ci siano degli organizzatori per il ritiro, che ci sia una cuoca per cucinare, che ci sia un luogo, e c'è, al fianco dei ciliegi, poi che ci sia un gruppo di meditanti che sono disposti a rinunciare per un certo periodo della loro vita a determinate comodità, insomma, le cose a cui sono abituati, e poi, infine, che ci siano degli insegnanti disposti a insegnare il Dhamma. And certainly here, among the different retreat locations, the stillness and the beauty of the nature here at Bienda Chileji is remarkable. And this will surely contribute to the deepening of your meditation. E rispetto a tanti altri luoghi di ritiri o di meditazione, qui a Pian dei Ciliegi c'è una particolare pace, un particolare silenzio, una bellissima natura, e questo sicuramente saranno delle condizioni favorevoli per la vostra, per l'approfondimento della vostra pratica. The venerable Mahasit Nasidov of Burma, who promoted the form of meditation practice that we will practice together, has condensed the instructions in one phrase. Il venerabile Mahasi della Birmania, che è quel maestro che rispetto ai quali insegnamenti noi stiamo praticando, ha condensato, ha concentrato l'essenza della pratica in una frase. Namely, to label, observe and know whatever predominant object comes up in the body or in the mind. Label, observe and know the nature. Quindi diceva di etichettare, osservare e conoscere la natura di qualsiasi oggetto che sorga nel corpo o nella mente. So until tomorrow morning 8 o'clock, when we will have more extended, or I will give more extended meditation instructions, just try to be mindful of whatever predominant object comes up. So if you happen to hear some loud sound, and this is the most predominant object, okay, and then take the hearing process as an object, label it as hearing, observe it in a non-reactive manner, and know its nature. Once the object disappears, go back to the observation of your rising and falling movement of the abdomen. Quindi fino a domattina alle 8, quando saranno date istruzioni più precise di pratica, allora il Venerabile ci invita a essere consapevoli di qualsiasi oggetto che sorga, oggetto predominante che sorga nel corpo o nella mente, e per esempio se dovesse sorgere un suono, allora prestare attenzione e etichettarlo come suono, osservarlo in maniera non reattiva e conoscere il fenomeno. Quando l'oggetto poi sparisce, ci invita a tornare all'addome, quindi osservare di nuovo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. And certainly, while you're observing the rising and falling movement of the abdomen, it could well be that maybe some pain arises somewhere in the body. Okay, in this case, let go of the observation of the rise and fall, and certainly focus your attention on the pain, label it accordingly, observe it, and certainly try to know its nature. Mentre stiamo osservando l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, potrebbe sorgere un dolore, allora in questo caso portiamo la nostra attenzione sul dolore, anche qui lo prendiamo come nostro oggetto, quindi lo etichettiamo, lo osserviamo, cerchiamo di conoscere la sua natura. E poi torniamo all'addome quando l'oggetto sparisce. And certainly then let's say after a sitting, when you walk out of the hall, then be mindful of the process of getting up, be mindful of the process of walking out of the hall, be mindful of slipping into your shoes, be mindful of walking up the stairs, and so on and so forth. Poi quando finisce la seduta nella sala di meditazione siate consapevoli dei movimenti che fate per alzarvi dal vostro posto, per camminare fuori dalla sala, infilarvi le scarpe, per salire su per le scale e via di seguito. Right. And suddenly, tomorrow morning, also when you get up, when you wake up, you get out of bed, try to do this slowly, mindfully, and suddenly then the whole process of getting ready has to be done mindfully. Then after the sitting, when you take breakfast, do this mindfully. Just do whatever activity you might be involved in, try to do this as slowly and mindfully as possible. E poi anche quando andate a dormire cercate di mantenere questa consapevolezza rispetto a tutti i vostri movimenti, le vostre azioni, e così domani mattina quando vi svegliate, e poi anche nel fare la colazione siate consapevoli del prendere il cibo, e qualsiasi cosa voi dobbiate fare cercate di farlo con la massima della consapevolezza, dell'attenzione. E fatelo soprattutto in maniera molto lenta. And suddenly now, let's suddenly conclude today's Dhamma talk with a verse, a Dhammapada, a verse suddenly given by the Buddha in Pali, Sukho Buddhanam Upado, Sukha Saddhamma, Saddhamma Desana, Sukha Sanghasa Sammaggi, Sammaganam Tapo Sukho. The meaning is, happy is the arising of a Buddha. Questi versi che il Venerabile ha recitato in Pali sono presi dal Dhammapada e la traduzione è felice è il sorgere di un Buddha. Happy is the exposition of the noble Dhamma. Felice è la esposizione, cioè la spiegazione del nobile Dhamma. Happy is the harmony amongst the Sangha. E felice è l'armonia tra il Sangha. And the last line is, happy is the practice of those in harmony. E l'ultima frase è, felice è la pratica di coloro che sono in armonia. And this is Metta chanting to Yes, we usually do the metta chanting. Yeah,